E come ogni settimana, dopo aver parlato di GMG con le prospettive e anche le testimonianze che abbiamo cominciato a sentire oggi di chi ci sarà, andiamo a sentire una voce dalla Caritas di Padova per conoscere le iniziative in programma nei prossimi giorni e altre novità in arrivo anche con l'estate. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. E questa settimana nello spazio Caritas ritorniamo a Padova e troviamo in viaggio tra un posto e l'altro Giorgio Pusceddu. Benvenuto Giorgio. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, partiamo da un appuntamento che è imminente questa domenica 17, un appuntamento importante per i volontari certamente, ma anche per chi incontrerete. Sì, perché abbiamo organizzato un momento per fermarci, riflettere insieme ai volontari, prepararci un po' alla Pasqua. È un momento che terremo alla Casa Madre Teresa, dietro l'Opera Provvidenza di Sant'Antonio, e verrà insomma a tenere una meditazione Monsignor Giuseppe Pasini, che ci allieterà con la sua presenza e con le sue riflessioni, sempre dense. E ne approfitto anche per dire che questo momento sarà anche un momento di condivisione e anche di un po' di allegria, perché poi ci sarà il pranzo insieme con il Porta e Condividi. Importante anche trovarsi, insomma, e chiacchierare anche non solo di temi di Caritas, ma anche stare insieme, certo. Torniamo su un tema che avevamo presentato qualche tempo fa, che era il censimento, un censimento che sta avanzando nell'elaborazione dei dati soprattutto, e che già ha una prima fase, possiamo dire una fase beta, ma insomma abbastanza dà già un'idea di che cosa c'è nel territorio. Ricordiamo intanto che cos'era questo censimento. Sì, abbiamo chiesto ai coordinatori vicariali, alle Caritas parrocchiali, di censire tutte le iniziative, i servizi vari eventuali che sono presenti nel territorio. Il censimento si è concluso a gennaio nella raccolta dei dati e poi abbiamo deciso di mettere online tutte queste informazioni nel nostro sito www.caritaspadova.it, in una forma che, come dicevi tu, è ancora sperimentale, però dà già un'idea di quello che sono le informazioni raccolte. Possono essere ritrovate, ricercate gli sportelli, tipo di distribuzione delle borse di spesa, delle parrocchie che organizzano i pranzi di solidarietà, dove ci sono i centri di ascolto, in modo che sia il volontario che incontra persone che hanno qualche difficoltà, sia chi ha voglia di informarsi, può trovare facilmente che cosa c'è già di attivo nel territorio. Ecco, e soprattutto ci sono poi anche i riferimenti, cioè sapere in quali giorni, in quali orari ci sono certi servizi, a chi fare riferimento, quindi esatto. Il numero di telefono o delle persone di riferimento, no? Sì, sì, abbiamo messo tutto. L'unica cosa che manca, che sarà esclusivo uso di coordinatori dei centri di ascolto vicariali, sono i riferimenti dei numeri di telefono privati dei responsabili. Beh, certamente sì, insomma, per ragioni di privacy. Ecco, qui c'è proprio una mappa, quando aprite il sito caritaspadova.it, in cui si vedono poi i simboletti, quindi i servizi di servizi di accoglienza, ambulatorio per gli anziani, vestiario, alimenti, solidarietà, migranti, disabilità, e davvero insomma dalle zone montane fino alla bassa, insomma, mi pare che questo censimento serviva anche a voi per capire insomma quali sono le zone dove c'è più un tipo di servizio piuttosto che un altro, insomma. No? Sì, anche per capire, anche per renderci conto noi e anche chi lavora, di una ricchezza che spesso non è conosciuta. Spesso si lavora nella propria parrocchia con servizi organizzati ottimamente, però non si ha conoscenza di quello che succede al di là del confine parrocchiale. Ecco, questa è un'occasione anche per far girare le informazioni. Ne approfitto per dire anche che manca qualche vicariato in questo censimento, che ha avuto qualche difficoltà nel raccogliere informazioni, ma noi possiamo sempre aggiornare il censimento dato che è uno strumento online. Quindi ecco, aspettiamo qualche dato ancora. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Un altro tema che tocchiamo con la Caritas di Padova e con Giorgio Pusceddu è un appuntamento, vari appuntamenti insomma. Uno ci porta già all'estate e ci porterà o vi porterà in Sardegna, giusto? Sì, abbiamo organizzato una settimana con, in gemellaggio con Caritas Cagliari e Caritas Sassari, un'occasione per un gruppo di giovani della diocesi di Padova per vivere un'esperienza sia di servizio, di volontariato, ma anche di incontro in una realtà molto lontana, diversa dalla nostra per alcune caratteristiche, ma che può sicuramente arricchire come confronto. Sarà dal 20 al 27 agosto di quest'estate e chi è interessato può scrivere una mail a giovani caritaspadova.it per avere dettagli e informazioni aggiuntive. Iniziativa quindi rivolta ai giovani? Sì, gruppo giovani, poi magari valutiamo le eccezioni o i limiti d'età caso per caso, se qualcuno si sente giovane ma anagraficamente pensa di non essere. Ecco, il tuo accento e il tuo cognome ti tradiscono tra virgolette, quindi le tue origini sarde c'entrano qualcosa in questa iniziativa? È chiaro che c'è stato un aggancio facilitato dalla presenza del territorio, insomma sì, vengo da lì, quindi ho avuto la facilità di cercare il contatto e di portarlo avanti. E adesso cerchiamo di concretizzarlo con questa esperienza. Dal 20 al 27 agosto dunque, giovani@caritaspadova.it per questa iniziativa. Un altro servizio che avete attivato, e anche di questo avevamo parlato, ma si sta consolidando, è quello della newsletter. Sì, siamo a marzo, lanceremo il terzo numero, è un'occasione per fermarci anche noi, fare il punto tutto quello che nel mese è nato, sta andando avanti, e per comunicarlo in una forma sintetica e leggibile a tutti quelli che sono interessati al mondo Caritas. Chi è interessato può iscriversi tramite il sito internet ad elenco delle mail a cui mandiamo questo strumento, e se insomma può riceverlo e vedere se gli interessa, se ha voglia di continuare a leggere. Parliamo di alcune novità che riguardano il lavoro all'interno. Sta iniziando il servizio una ragazza, se non sbaglio un tirocinio meglio, che si occuperà di geografia e di racconti. Spiegaci meglio. Sì, abbiamo sviluppato un progetto con l'Università di Padova per far partire questo tirocinio, una ragazza che farà una raccolta di narrazioni biografiche. Dopo chiederà, intervisterà con il metodo dell'intervista narrativa un certo numero di persone che hanno avuto a che fare con la Caritas, volontari o utenti, per far emergere quello che spesso nei report numerici non viene fuori, cioè il fatto che ci sono vite dietro i numeri con cui noi abbiamo a che fare. E questo vuole essere appunto un progetto che poi si concluderà con un prodotto, un libro, una raccolta, dove si aggiranno appunto queste storie di vita. Ecco, la qualità oltre la quantità, perché facciamo un lavoro che ti porta a contatto con esperienze, con vite, quindi vale la pena anche spendersi per farle emergere. L'ultima segnalazione la facciamo per gli incontri di orientamento al volontariato. Sì, noi abbiamo, che continuiamo ad avere, uno sportello che si occupa di cercare di dare una mano a chi vuole fare il servizio, vuole iniziare un'attività di volontariato e non sa dove andare. E incontriamo le persone con questo desiderio e cerchiamo insieme, con una chiacchierata, di capire dove potrebbero spendersi e con che modalità. Quindi se avete intenzione, avete voglia se solo di informarvi, basta mandare una mail sempre a giovani@caritaspadova.it. Giovani, ma non solo giovani, insomma. Certamente, la disponibilità insomma è aperta per tutti quanti. Vedevo sul sito, Giorgio, ultima cosa, che c'è anche un corso base che si svolge a Campo San Martino, un incontro è già stato fatto nei giorni scorsi, ce ne sono altri due, il 21 marzo e poi l'11 aprile. Sì, grazie che hai ricordato anche questo, è un'occasione fantastica per andare nel territorio e condividere insieme a chi lavora concretamente ogni giorno in trincea, con le caritas parrocchiali nel territorio, quali sono i fondamenti, cioè il perché, il senso del nostro lavoro quotidiano. È un momento per fermarci e dire: ma la Caritas perché è nata? Quando il Papa l'ha lanciata e poi i Vescovi si sono incontrati per organizzarla, che cosa avevano in mente? E questa è un'occasione fantastica di arricchimento nostro, che lavoriamo in diocesi, per confrontarci con le aspettative, i desideri e l'immaginario di chi lavora nel territorio, e anche per chi lavora nel territorio per fermarsi e dire: aspetta, sono 100% Caritas o sto facendo qualcos'altro? E questo. Un punto di domanda da porsi, evidentemente. Allora, caritaspadova.it per tutti i dettagli, con voi Giorgio e con tutti gli altri volontari operatori della Caritas. Ci risentiremo subito dopo Pasqua nel prossimo turno, quindi buona Quaresima per quel che ne resta e fin d'ora auguri. Grazie a tutti quanti, un saluto. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.